Direi che siamo ancora ai preliminari, poi oggi la istruttoria entrerà nel vivo attraverso le tante voci della città che hanno voluto iscriversi per proporre il loro punto di vista. Per quello che riguarda l'avvio dei lavori, ieri l'altro abbiamo riscontrato una, per certi aspetti, abbastanza noiosa riproposizione del punto di vista dell'amministrazione comunale, corredata dalle opinioni dei tecnici del comune, che, faccio solo questa osservazione, sono state letteralmente fatte a pezzi dagli esperti indicati dai tre gruppi consigliari di Coalizione Civica, 5 Stelle e Gruppo Misto. Poi c'è stato l'intervento del comitato attraverso parole di Roberta Bartoletti, che ha ben rappresentato le nostre posizioni. Quindi adesso vedremo tra oggi e domani se effettivamente decollerà una discussione in grado di raccogliere appunto le istanze che dalla città stanno sorgendo in maniera alquanto consistente, che oggi troveranno appunto conferma nei tanti interventi programmati. Quindi quella seppur timida apertura avvenuta dall'assessore Lepore su Facebook qualche tempo fa, in seguito anche una vostra mobilitazione con iniziativa di Abbracciamo il Bosco, non trova però riscontro nella posizione ufficiale della giunta? Direi proprio di no. Nelle parole dell'assessore Orioli non vi era proprio traccia di queste caute aperture dell'assessore Lepore. E non so come interpretare questo. Per certi aspetti, diciamo così, ci si aspettava che la giunta tenesse il punto, insomma, in fase di avvio. Anche se questo è stato fatto da parte dell'assessore Orioli, appunto, in un modo che mi permetto di osservare sostanzialmente sordo alle tante istanze della città, e questo mi preoccupa molto, perché quando la politica è così sorda a quello che bolle in pentola in città è sempre un fatto negativo. Mi auguro che nei prossimi giorni, tra oggi e domani per l'appunto, si denoti un'apertura di una discussione proficua, perché in caso contrario naturalmente si pone un problema molto serio a mio parere. La posizione del comitato è anche quella di offrirsi per una eventuale gestione se il POC viene cambiato e il progetto diventerà quello di un bosco urbano, è così? Certo, ma noi questo lo abbiamo già dimostrato, lo abbiamo già fatto. Noi abbiamo organizzato diversi mesi fa ormai una bellissima passeggiata nel parco, consentendo quindi a centinaia di persone che non ne avevano per nulla contessa di vedere, toccare con mano che cos'è il bosco urbano dei Prati di Caprara. Poi siamo andati a pulirlo poche settimane fa, dimostrando appunto che i cittadini, quando si organizzano, possono dare una mano concreta, non solo fare delle chiacchiere, insomma, bonificare un'area, pulirla, renderla fruibile. Per questo Roberto Bartoletti l'altro giorno ha sottolineato questo punto, che è un punto sostanziale, cioè che noi siamo convinti che nel quadro di un accordo che preservi il bosco dei Prati di Caprara si possono attivare dei percorsi di partecipazione attiva, di cittadinanza attiva, insomma, di volontariato, che aiutino a preservare quella straordinaria risorsa e a renderla fruibile alla città nei modi che si vorrà poi definire. Ma su questo c'è una grandissima disponibilità da parte delle persone, come peraltro poi ha dimostrato anche la stessa raccolta di firme nell'ambito dei luoghi del cuore promossa dal FAI, che ha raccolto una cifra enorme di adesioni. Ormai i Prati di Caprara stanno diventando, diciamo così, un punto fermo nell'immaginario collettivo della città, naturalmente non solo come tema a sé stante, ma come parte di un ragionamento che guarda quello che sta accadendo tragicamente, insomma, i cambiamenti climatici, l'aumento delle malattie respiratorie, cardiovascolari, il peggioramento progressivo della qualità dell'aria, e quindi il tema, diciamo così, di immaginare una prospettiva di sviluppo di Bologna, come sempre è avvenuto nella sua migliore tradizione, ma preservando per l'appunto una grandissima attenzione e valorizzazione dei temi ambientali, perché qui si gioca la partita del futuro per noi che siamo qui adesso e per chi verrà dopo di noi. È sgombrata la contropartita dello stadio, la questione dell'outlet che mi sembra ormai archiviata, non è che l'insistenza del comune sul progetto urbanistico del comparto est possa essere letta come un un non come apparire come appunto sconfitto, come una resa di fronte alla battaglia del comitato? Io non credo questo, e mai noi l'abbiamo messa giù in questa maniera. Noi non chiediamo né rese incondizionate né dichiarazioni di sconfitta da parte che sia, anzi vorrei sottolinearlo questo dato: abbiamo avuto fin dall'inizio un approccio assolutamente rispettoso dei ruoli di tutti, assolutamente finalizzato alla ricerca di una interlocuzione con tutti, intendendo per tutti le forze sociali ed economiche della città, le forze politiche senza eccezione alcuna, perché siamo convinti che attorno a questa partita della riorganizzazione del quadrante ovest e più in generale, diciamo così, della città e della sua prospettiva, quindi ci metto dentro anche la vicenda del CRB che vorrei non finisse nel dimenticatoio, si giochi una partita talmente importante da consentire anche di costruire nuove convergenze, oltre a quelle che sono le attuali caratteristiche del dibattito pubblico bolognese, perché su temi come questi, dove si riscontra una oggettiva trasversalità, ci sono, a nostro parere, le condizioni per compiere tutti quanti insieme un grande passo in avanti. E quindi io penso che non sia il caso di riproporre uno schema, diciamo così, un po' desueto, secondo cui c'è chi vince, c'è chi perde. Qui se si vince, secondo noi, si vince tutti, e se si perde, si perde tutti.